L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. La frase, la sintesi, il passepartout dell'ultima settimana di avvenimenti e notizie che ci prepariamo a rivivere nella prossima ora potrebbe essere "Gepensimi". Non so se approvate la scelta, che pensi me, insomma, è un'espressione milanese che non ha certo bisogno di presentazioni ed è soprattutto molto amata, molto cara al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Berlusconi l'ha pronunciata alla fine della settimana scorsa, quasi a voler esorcizzare la situazione esplosiva, incandescente all'interno della maggioranza. Purtroppo per Berlusconi, però, bisogna dirlo, negli ultimi giorni, nei giorni successivi poi alla sua esternazione, numerose mine vacanti sono un po' esplose in Parlamento, fuori dal Parlamento, nel Consiglio dei Ministri, e di tutto questo naturalmente dobbiamo rendere conto qui all'ottavo giorno. Tanto per sfogliare l'elenco, abbiamo avuto lunedì le dimissioni da ministro di Brancher, poi c'è stata la protesta a Roma degli aquilani che è finita con un ritocco direi importante, sacrosanto alla manovra a favore naturalmente dei terremotati, però prima ci sono stati anche dei tafferugli e dei feriti in piazza, tutto naturalmente deprecabile, però poi forse non ci si può sorprendere troppo se anche a Montecitorio, cioè all'interno dell'aula della Camera, sempre mercoledì sono volate alte le mani ed è finito in ospedale addirittura il deputato dell'Italia dei Valori, Franco Barbato. Poi la politica, bisogna dire, questa settimana ha dilagato per spunti che ha offerto, per influenze, per condizionamenti, perché abbiamo visto anche le ultime puntate sul lodo Alfano e sulla manovra con il confronto incessante, continuo tra regioni e governo. Le ultime anche sono arrivate sul disegno di legge sulle intercettazioni, per il quale tra l'altro ieri c'è stato anche lo sciopero dei giornalisti. E a proposito dello sciopero, ricordo che la redazione di Radio 24 ha aderito e infatti nella puntata di oggi dell'ottavo giorno non sentirete nessun servizio di ieri, semplicemente perché ieri nessun servizio è andato in onda durante i GR. Su tutto questo lungo elenco dei fatti della politica tireremo presto una riga tra pochi minuti insieme a Stefano Folli, però prima permettetemi qualche nota un po' più leggera e anche, se volete, ironica, perché per la nostra copertina, o se vi piace di più per l'editoriale della puntata di oggi, rubo a piene mani, lo faccio felicemente, dai colleghi del giornale radio, perché così hanno aperto l'edizione delle 7 di giovedì. Questa è la copertina di Paolo Panceri. Questa che vedi è la tua Italia, un paese unico, fatto di cielo, di sole, di mare, ma anche di storia, di cultura e di arte. Impiega le tue vacanze per conoscere meglio l'Italia, la tua magica Italia. Il premier Silvio Berlusconi è davvero vulcanico e ubiquo. Dopo la fatica di governare, viaggiare e tenere a bada il riottoso PDL, riesce anche a occuparsi della promozione dell'Italia. Ed eccolo quindi scendere di nuovo in campo nella campagna del governo per la valorizzazione dei territori, della cultura e della storia del paese. Smagliante come sempre, Berlusconi ha messo all'angolo l'ormai storico spot in inglese di 3 anni fa di Francesco Rutelli, allora ministro dei beni culturali. Lo ricordate? Please visit Italy. Visit our country. We will welcome you warmly and with a better organization. A pubblicizzare la performance del premier, la ministra del turismo, Michela Vittoria Brambilla, che di bellezza italica personale in questi anni ne ha messa in mostra parecchia. Una volta scoperte le meraviglie di questo paese, poi il turista italiano forse comprenderà che la sua esterofilia era più un'abitudine che una scelta convinta. Il duo Berlusconi Brambilla ha davanti a sé una grande sfida, contribuire alla ripresa di un settore, quello del turismo, che in Italia vale il 10% del prodotto interno lordo. Immortale la voce in inglese di Rutelli, mentre sono abbastanza curioso di sapere se qualcuno magari seguirà l'appello, l'invito di Berlusconi e quindi andrà in vacanza non all'estero ma qui in Italia, nel nostro bel paese. Fatemi sapere naturalmente, ottavo giorno at radio24.it. Dobbiamo raccontarvi adesso una settimana fitta, calda, al di là poi del clima meteorologico, della politica italiana. Tra poco ci offrirà le sue punteggiature Stefano Folli, che è qui accanto a me. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Intanto procediamo in ordine più possibile cronologico. Lunedì arrivano le dimissioni del ministro meno in carica o quasi della storia, ovvero Aldo Brancher. Sentiamo il resoconto della giornata di Brancher con Raffaella Calandra. Si alza dal banco degli imputati e tutto finisce laddove le polemiche erano iniziate, nell'aula del processo Anton Veneta. In pochi minuti Aldo Brancher annuncia le dimissioni, rinuncia al legittimo impedimento e passa al rito abbreviato incondizionato. Anticipo in questa sede la mia decisione irrevocabile di dimettermi da ministro, perché finiscano le strumentalizzazioni e anche le speculazioni. Pensavo di dover privilegiare per un breve periodo gli interessi del paese, si giustifica Brancher, a cui la procura contesta 827.000 euro tra appropriazione indebita e ricettazione, insieme alla moglie, che sarà giudicata con rito ordinario. Per il politico invece, con l'abbreviato, dal momento che sono esclusi i testi, già il prossimo 28 luglio il giudice Anna Maria Gatto potrebbe emettere la sentenza. Così, dopo un ministero lampo di 17 giorni, Brancher si avvia verso un processo altrettanto fulmineo di un mese e 48 ore. Allora, abbiamo sentito il racconto delle ultime ore da ministro di Brancher e dunque a Stefano Folli ho subito, insomma, ormai che i giochi sono fatti, due domande in una. Innanzitutto, chi ha avuto a questo punto questa geniale idea di farlo ministro, visto poi tutto quello che è successo dopo? E soprattutto, adesso che si è dimesso, possiamo dire che la storia è definitivamente chiusa, come dice Vittorio Feltri, oppure l'onta, la macchia d'immagine sul governo rimane e rimarrà a lungo? L'immagine rimane macchiata, evidente, perché il secondo ministro che si dimette nel giro di poche settimane, l'altro, Scajola, era un ministro vero, diciamo, di un importante ministero. Questo è stato un ministro di cui nessuno ha mai capito quale fosse la responsabilità ministeriale, e purtroppo è stato un autogol, un grave autogol, che in qualche modo è stato concepito tra la Lega e il Popolo della Libertà, ma è stato secondo me un po' subito da Berlusconi e da Bossi in una prima fase. Ma questa è un'aggravante, non una giustificazione. Entrambi hanno in qualche modo sottovalutato la cosa, e quando poi si sono accorti che l'operazione era disastrosa, un po' perché Napolitano, il Presidente della Repubblica, si è molto irritato, un po' perché Bossi ha scoperto che la sua base non voleva assolutamente questo pasticcio, a quel punto si è stati costretti a risolvere la questione in un modo un po' grottesco, con queste dimissioni immediate. Quindi alla fine direi che è qualcosa di autolesionistico in termini politici. E tra l'altro adesso in tempi brevi dovrebbe esserci anche la sentenza sul suo processo, quindi l'onda lunga della vicenda Brancher in un modo o nell'altro ritornerà indietro a breve, tra poche settimane. Sì, sono quelle cose che non finiscono mai in un certo senso, anche se effettivamente in sé le dimissioni in sé chiudono almeno la ferita, però poi rimane questa traccia di malessere, soprattutto la sensazione che le cose succedono un po' per caso, che si cerca sempre di trovare delle scorciatoie e poi magari non riescono, bisogna tornare indietro. Questa sensazione è la peggiore da un punto di vista dell'immagine pubblica. Un po' di approssimazione dell'agenda politica. Sì. Non c'è dubbio che un altro colpo all'immagine del governo è arrivato mercoledì in concomitanza con la discesa a Roma degli Aquilani, che sono venuti nella capitale a protestare contro la manovra, i dettagli che naturalmente riguardavano le zone terremotate. E tanto si allunga la lista già infinita di chi ha da ridire sulla manovra messa a punto da Tremonti. Sentiamo sulla giornata di mercoledì Maria Caragrandis, che era in piazza a contatto con chi protestava e anche con i tafferugli che si sono verificati. Dopo una giornata di scontri con le forze dell'ordine per le strade della capitale, gli aquilani tornano in Abruzzo con una rassicurazione. Ministero dell'Economia e Presidenza del Consiglio annunciano che il recupero dei contributi non versati dopo il terremoto avverrà in 120 rate mensili da gennaio 2011. Il governo inoltre presenterà al Senato un emendamento alla manovra per ripartire il pagamento su 10 anni anziché 5. Era quello che chiedevano gli oltre 2.000 cittadini e sindaci d'Abruzzo arrivati a Roma su 40 pullman autofinanziati, sventolando bandiere verdi e nere. Hanno fatto le loro passerelle, i politici e il mondo dello spettacolo, e ci hanno lasciato una città devastata. Noi vogliamo lo stesso trattamento che hanno avuto le altre regioni italiane terremotate. Il corteo parte in mattinata da Piazza Santi Apostoli, solo una delegazione autorizzata a raggiungere Montecitorio, ma qualcuno si sgancia e partono le cariche della polizia. Due ragazzi rimangono feriti, colpiti con manganelli. Nella mischia anche il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. Non è possibile che noi, per avere un'ordinanza, dobbiamo venire qui in piazza e prendere anche le botte. Alle 13 i leader dell'opposizione raggiungono i manifestanti in Piazza Colonna, ci sono Bersani e Di Pietro. Poi altri scontri nel primo pomeriggio vicino a Palazzo Grazioli, più tardi un presidio in Piazza Navona. Alle 18 ci sono le ultime proteste, sono sotto la sede della Protezione Civile. Siamo sempre in compagnia di Stefano Folli del Sole 24 Ore qui in studio a Roma. Io voglio sfuggire, insomma, lo faccio a gambe levate, dagli estremisti, diciamo, demagogici da una parte e dall'altra sul terremoto, quelli che dicono che va tutto bene, quelli che dicono che il governo non fa nulla. Io credo che, come spesso capita, insomma, la verità stia nel mezzo. Credo che, insomma, nella fase di emergenza il governo sia stato presente e l'abbia gestita anche abbastanza bene, però forse adesso dopo un anno dai terribili, anche più dai fatti dell'aprile del 2009, l'abbrivio forse si è un po' affievolito. Sì, la penso anch'io così. Sì. Penso c'è un momento di impasse complessivo. Sì, io penso che la fase emergenziale iniziale sia stata gestita molto bene, con grande efficacia e grande tempestività. Poi penso che adesso sì, le cose siano state un pochino dimenticate e soprattutto ci sono degli aspetti singolari, no? Questa idea di far pagare le tasse ai terremotati, non accorgersi che insomma una dilazione era indispensabile, anche qui sta a dimostrare una certa caduta di tensione, una certa distrazione rispetto ai problemi. Problemi che sono semplici, che si possono facilmente risolvere, come poi è stato risolto, ma dopo un'altra perdita di immagine, perché questa manifestazione, io sono sicuro che... Sicuramente Berlusconi avrà sofferto molto anche, certo, sicuramente, sul piano dell'immagine, perché vedersi, certo, i terremotati contro, insomma, sì, che devono solo aspettarsi. Non c'è dubbio, però penso anche che una parte, diciamo, di questi dimostranti cercasse anche l'incidente con la polizia, no? Mi sembra abbastanza ovvio, perché quando vai a cercare di rompere i cordoni della polizia è logico che i poliziotti sono costretti a reagire. Quindi c'era anche una strumentalizzazione di questa vicenda. Però, a maggior ragione, proprio perché questi sono i rischi, cerca di provvedere prima, no? Evita che si creino queste condizioni con una serie di interventi misurati al problema, e soprattutto evitando di creare questa contraddizione fiscale, che mi sembra assurda, trattandosi in fondo di un numero esiguo di cittadini che hanno tra l'altro subito una gravissima vicenda. Quindi si poteva anche qui affrontare e risolvere tempestivamente. Tra l'altro gli aquilani, l'abbiamo ricordato, erano a Roma per protestare contro la manovra, non sono i soli, perché in questi giorni ne abbiamo visti tantissimo, le regioni, i magistrati, le forze di polizia. Ieri c'è stato questo incontro tra Berlusconi e i rappresentanti delle regioni e insomma Errani era piuttosto scorato. Io ti faccio una domanda più che nel merito, forse nel metodo, perché non è che a forza di aggiustamenti, di correzioni per non scontentare nessuno, poi questa manovra fortemente voluta e tenacemente difesa da Tremonti poi rischia di perdere quella che è la sua, chiamala così, principale ragione sociale, ovvero il rigore anche implacabile a volte nel sanare i conti? No, questo non credo, perché l'aver detto che si poneva la fiducia prima ancora dell'incontro con le regioni sta a testimoniare che si vuole mantenere questo impianto di rigore. Poi sono discutibili i singoli aspetti della manovra, però c'è questa volontà, perché siamo sotto gli occhi dell'Europa, siamo sotto gli occhi dei mercati finanziari. È chiaro che non si può rinunciare al rigore, di cui Tremonti è stato sicuramente paladino, il custode, il paladino. Il punto forse però è che anche qui è mancata un po' una preparazione di tipo politico. Forse si poteva evitare di creare questo aspro conflitto con le regioni. Ricordo, regioni in cui il centrodestra, dopo le elezioni di primavera, è ampiamente rappresentato, non è mai stato così forte nell'amministrazione regionale del centrodestra come è oggi, e nonostante questo un governo di centrodestra è entrato in conflitto con i suoi governatori, a cominciare da Formigoni, che è il governatore della regione più importante, quella che produce, dà il maggior contributo al prodotto interno lordo. Il governo sulla manovra ha annunciato che metterà la fiducia, si è discusso in questi giorni se sia una prova di coraggio, di debolezza del governo, ma più di questo vorrei capire da te se invece la scelta è giusta, sbagliata, inevitabile. Berlusconi ha anche detto o si vota o si va tutti a casa, quindi allora, continuano le fibrillazioni interne alla maggioranza. Allora, la fiducia sulla manovra non è mai bello quando un governo mette la fiducia in Parlamento, perché è un modo naturalmente per sminuire il ruolo del Parlamento, però in questo caso, con tutte le tensioni che c'erano, con i problemi all'interno della stessa maggioranza centrodestra, quindi il rischio quindi di vedere la manovra stravolta, secondo me non c'era altra possibilità, per come si erano messe le cose, che porre la fiducia e dire noi da questo non ci muoviamo. Da questo ne consegue la cosa che ha detto Berlusconi, ma che è ovvia, cioè è chiaro che se per caso mai il governo dovesse essere battuto sulla fiducia chiesta sulla manovra economica, evidentemente non ci sarebbero che le dimissioni immediate. Questo mi sembra un'ovvietà. E abbiamo lasciato fuori la questione giustizia, che potrebbe aprire un capitolo a parte, quasi un'intera trasmissione. In settimana abbiamo visto nuovi sviluppi sul lodo Alfano, addirittura il Quirinale è stato tirato in ballo in una polemica con il giornale Il Fatto. Dall'altra parte c'è il disegno... È stato un emendamento del Partito Democratico assolutamente... Un autogol incomprensibile, no? Di voler creare una sorta di corazza di protezione al Presidente della Repubblica, che non mi sembra... Non richiesto, peraltro, mi sembra. Non richiesto, e mi sembra che non ne abbia bisogno, insomma, non ho capito capito la logica di questo emendamento. L'altro versante è il disegno di legge sulle intercettazioni. Ieri c'è stato lo sciopero anche della nostra categoria dei giornalisti. Secondo te lì come siamo messi? Insomma, Berlusconi ha voluto aprire un po' sia a Fini che anche al Quirinale. Sì, ma questa legge, che era partita come una grande bandiera ideologica, è una specie di affermazione di un principio, adesso è diventata una legge che si può modificare, si può emendare, insomma ha perso quel suo carattere di urgenza, di necessità ideologica, e quindi questo vuol dire che sarà cambiata rispetto alle premesse, rispetto a quello che era, come era stata discussa al Senato, verrà modificata, e probabilmente verrà modificata in tempi più lunghi, quindi probabilmente si scavallerà l'estate, ci sarà modo di evitare che sia una legge che provoca tante così aspre polemiche, non soltanto da parte dei giornalisti, ma insomma abbiamo visto lo stesso Presidente della Repubblica si è impegnato molto severamente a sottolineare le criticità. Ultima battuta fulminea su quello che ha scritto anche il Financial Times in questi giorni, cioè ha ribadito il fatto che Berlusconi è arrivato quasi alla fine della sua parabola, torna con vigore il tema delle elezioni anticipate. E tu già in passato ne avevamo parlato, non lo escludevi per l'anno prossimo, adesso in questa estate calda come vedi lo scenario? No, l'anno prossimo è un'altra vicenda, vedremo, dipenderà da come arriveremo. In quest'anno abbiamo un'estate che è molto calda, un'estate in cui certamente la politica non sta dando il meglio di sé, si vive in una situazione di stallo, no? Sembra quasi di impasse, mi pare che sia la maggioranza sia l'opposizione non hanno una chiara direzione. Che è forse di marcia. Peggio di una crisi conclamata. È peggio, non vedo una caduta di Berlusconi a breve termine, vedo un certo suo logorio personale che peraltro va avanti già da un po' di tempo, e poi l'anno 21 vedremo. Certo, questa legislatura, per come sono oggi le cose, la situazione, le premesse, non è una legislatura che sembra fortunata e destinata a concludersi secondo le previsioni del 2013. D'altra parte, elezioni anticipate con questa crisi economica, con questa difficoltà dei rapporti politici, sono forse la iattura peggiore in questo momento. Fra 6 mesi vedremo. E beh, sono un bel rebus che certo io e Stefano Folli non potevamo risolvere in pochi minuti. Grazie a Stefano Folli. Credo che nei prossimi minuti forse stabiliremo un piccolo record qui all'ottavo giorno, perché rischiamo per la prima volta di parlare di una non notizia della settimana, non notizia che peraltro è stata sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo, perché comunque è stata una non notizia di cui si è parlato in lungo e in largo. Tra poco capirete di cosa sto parlando esattamente, ma può essere già un indizio molto prezioso capire e sapere chi sarà il mio interlocutore nei prossimi minuti, ovvero un amico dell'ottavo giorno, Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Allora Alberto, tra poco sveleremo questa famosa non notizia, magari tu ci credi, chi lo sa, per la quale ti ho convocato, però partiamo dal Medio Oriente. Tu sei reduce, se non sbaglio, da Ankara, quindi conosci bene la Turchia. Torniamo a lunedì sera con Sergio Nava, ascoltiamo le ultime tensioni tra Turchia e Israele. Relazioni turco-israeliane vicine al punto di rottura in seguito all'episodio dell'assalto alla flottiglia dei pacifisti a Gaza. Il ministro degli esteri turco Ahmet Davutoglu ha chiesto le scuse formali di Israele, andando un passo oltre la già prevista riduzione delle relazioni con Tel Aviv stabilita nelle ore successive al raid navale. Contemporaneamente Ankara ha chiuso il proprio spazio aereo ai caccia israeliani. Davutoglu ha pure esortato lo Stato ebraico ad accettare le conclusioni di un'inchiesta internazionale ed imparziale. Da Tel Aviv la risposta è stata però netta. Il ministro degli esteri Avigdor Lieberman ha affermato che non intende presentare le proprie scuse. A nulla sembrano dunque serviti gli sforzi diplomatici segreti dei giorni scorsi, che hanno visto incontri tra alti ufficiali turchi e israeliani per dirimere il bandolo della matassa. Proprio Davutoglu aveva incontrato il ministro del commercio israeliano Ben Eliezer in Svizzera solo 5 giorni fa. A sentire parlare di crisi di relazioni e addirittura di rottura, francamente mi preoccupa. Così ha commentato il ministro degli esteri italiano Franco Frattini, per il quale occorre aspettare l'esito dell'inchiesta avviata da Israele per capire cosa è successo. Siamo tornati in studio con Alberto Negri, sempre all'ascolto, in collegamento telefonico. Alberto, tutto quello che avviene in Medio Oriente di fatto è complicato quasi per definizione, è ricco di sottintesi, parentesi. Aiutaci allora a leggere il sottotesto di questa dichiarazione, insomma, non proprio conciliante, di Ankara, della Turchia nei confronti di Israele. Ma dunque, io vedo questa crisi tra Israele e la Turchia come un grande cambiamento di un fattore strategico che in qualche modo ha governato il Medio Oriente negli ultimi 15 anni. Turchia e Israele sono firmarono un accordo militare già nel 94, poi lo rinnovarono nel 96. La loro collaborazione nel campo militare dell'intelligence in qualche modo ha segnato gli equilibri del Medio Oriente. Con la crisi di Gaza del 2009, poi la questione sanguinosa della nave Mavi Marmara, quella che è stata attaccata dalle truppe israeliane con i 9 morti turchi, i rapporti tra i due paesi sembrano in qualche modo irrimediabilmente rovinati. Però, c'è un però. Come sempre in Medio Oriente le sfumature sono, i dettagli sono importanti. Mentre si consumava questa rottura anche nelle dichiarazioni del ministro degli esteri turco, che ha deciso di chiudere il spazio aereo militare della Turchia ai voli aerei militari di Israele, minacciando anche la rottura delle relazioni diplomatiche, ebbene, mentre avveniva questo, nelle stesse ore tecnici israeliani arrivavano in Turchia per addestrare i militari turchi all'uso degli aerei senza pilota, una commessa militare di 10 aerei, già ne sono stati consegnati 6, che in qualche modo sono molto utili alla Turchia per fare la guerra contro il PKK nel Kurdistan. Ebbene, questi sono segnali che forse questa rottura definitiva non ci sarà e che comunque forse avverrà anche in maniera diversa da quella che noi possiamo pensare. Perché poi Alberto, in tutto questo mosaico già complesso del Medio Oriente, dobbiamo anche ricordare che Israele è il miglior amico nell'area degli Stati Uniti e anche i turchi ormai sono buoni alleati, insomma, all'interno della NATO degli Stati Uniti, quindi c'è anche questo equilibrio da tenere in considerazione quando si parla di Medio Oriente, no? Ma non c'è dubbio, la rottura, eventuale rottura completa dei rapporti tra Turchia e Israele sarebbe in qualche modo un grossissimo problema anche per la NATO, per l'Alleanza Atlantica. La Turchia fa parte della NATO da 50 anni, Israele è legata con degli accordi speciali, particolari con la NATO stessa, quindi in qualche modo tutti sono coinvolti, da Washington all'Europa. Nel frattempo, in questi giorni, abbiamo assistito invece ad un'apertura, forse non clamorosa, però comunque netta nelle parole del presidente Obama sulla Turchia che dovrebbe entrare nell'Unione Europea. Naturalmente la storia è antica, perché il governo di Ankara è di fatto da anni, se non sbaglio almeno 6, sotto osservazione di Bruxelles. In questi giorni ho letto una colorita prima pagina della Padania che, insomma, ha continuato nel suo vecchio refrain contro la Turchia. Però, insomma, questa uscita, diciamo, plateale di Obama pro Turchia, come la vedi? Beh, è importante, ribadisce una posizione che Washington ha sempre avuto, cioè sostegno all'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, ingresso che dai paesi europei è sostenuto principalmente dalla Gran Bretagna e dall'Italia, molto meno dalla Germania, che ha 5 milioni di turchi in casa, e dalla Francia, che ha sempre un po' osteggiato l'ingresso dei turchi in Europa. Ma secondo te questa uscita di Obama può smuovere le acque in maniera significativa? No, non credo, perché è una posizione che in qualche modo dà il segnale dell'avvertenza che c'è da Washington, anche una certa preoccupazione dei segnali che sono venuti dal Medio Oriente, forse più un messaggio a Israele per abbassare i toni con la Turchia che non all'Europa per fare entrare la Turchia nell'Unione Europea. Obama sa benissimo, come lo sanno tutti, che quella dell'Unione, d'ingresso nell'Unione Europea della Turchia è un processo lungo, a parte che la Turchia ha fatto la prima domanda per entrare in Europa negli anni 60, cioè oltre 40 anni fa, è stato uno dei primi paesi a presentarla. Poi, se non sbaglio, il processo è partito ufficialmente nel 2004 e in teoria dopo 10 anni, quindi nel 2014, dovrebbe chiudersi questa fase di esami su più fronti della Turchia, no? Ma certo, ma Obama sa benissimo che non ci sarà un ingresso breve della Turchia. Però spingere per l'ingresso della Turchia nell'Unione è un modo di dare un messaggio anche agli altri paesi della regione. Diciamo che probabilmente Obama non sarà più presidente anche nell'eventualità di un secondo mandato, prima di vedere la Turchia all'interno dell'Unione Europea. Nel frattempo Obama in questi giorni, tanto per sempre incastrare di più questo mosaico di cui stiamo parlando, medio orientale, ha incontrato anche Netanyahu negli Stati Uniti. Ascoltiamo allora il resoconto di questa visita di Mario Platero e poi ne discutiamo ancora in studio con Alberto Negri. È andato bene, anzi benissimo, l'incontro fra Barack Obama e Benjamin Netanyahu. Improvvisamente la freddezza freddezza, le tensioni, i disaccordi che c'erano fra Israele e Stati Uniti sembrano essere stati seppelliti all'improvviso. Ci sono naturalmente ragioni politiche. Il presidente Barack Obama sa che ha elezioni importanti a novembre, vuole mettere in movimento la macchina di pace in Medio Oriente e alla fine è riuscito a trovare in Netanyahu l'interlocutore adatto. Ciascuno ha fatto concessioni. Netanyahu, per esempio, ha fatto sì che a Gaza si possano portare derrate alimentari e medicinali in modo più facile. Da Israele è giunta anche la notizia che ci sarà una corte marziale per dei militari che avevano commesso degli atti non propriamente corretti contro le regole militari quando ci fu l'invasione a Gaza nel 2008-2009. Infine, Israele quasi certamente rinnoverà la moratoria sui nuovi insediamenti che scade a settembre. Netanyahu ha detto che nel giro di qualche settimana ci saranno novità importanti. L'unica novità importante che potrà esserci è la ripresa di un discorso, di un filo diretto tra lui e Abu Mazen, il leader palestinese. Allora, qualche minuto ancora insieme con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Abbiamo sentito la voce di Mario Platero che ci ha aggiornato su questo incontro, finalmente disteso rispetto ai precedenti, agli ultimi, tra Netanyahu ed Obama. Anche in questo caso, Alberto, ti chiedo di leggere sotto il testo, cioè finalmente abbiamo avuto parole un po' più rasserenate tra Stati Uniti e Israele. Insomma, da quando c'è Obama presidente non è che i rapporti siano proprio idilliaci, però insomma, al di là della facciata di ottimismo e speranza, che cosa si nasconde dietro? Beh, innanzitutto Washington voleva ricucire i rapporti con Netanyahu. A un certo punto sembrava che ormai le due capitali fossero un po' ai ferri corti. Ora era evidente che non poteva durare questa situazione. Israele resta non solo l'alleato maggiore degli Stati Uniti in Medio Oriente, ma quello anche più sostenuto dal punto di vista degli aiuti economici militari, di cui ogni tanto ci dimentichiamo, ma che rappresentano una parte consistente di questa alleanza tra gli Stati Uniti e Israele. E quindi in qualche modo Obama voleva ricucire anche perché l'amministrazione americana l'obiettivo è quello di una ripresa dei negoziati tra Israele e i palestinesi, e questa ripresa dei negoziati non può non avvenire ovviamente senza il consenso del governo Netanyahu. Allora, Alberto, per concludere veniamo alla notizia misteriosa, davvero misteriosa in tutti i sensi, di cui abbiamo parlato all'inizio, sono a rischio di perdere il filo del discorso, perché martedì dal Pakistan è rimbalzata una notizia davvero sensazionale, ovvero l'arresto del Mullah Omar. Parliamo praticamente del numero uno dei talebani, direi per fama secondo soltanto ad Osama Bin Laden, e insomma pare che sia nelle mani della polizia pakistana già da qualche mese, questo stando a martedì. Poi in realtà col passare delle ore non sono arrivate conferme, la notizia nel frattempo ha fatto il giro del mondo, a questo punto non sappiamo ancora se credici o meno. Tu, con il tuo fiuto afghano, diciamo così, perché conosci molto bene l'area, sul momento cosa hai pensato e che cosa pensi oggi a distanza di qualche giorno? Ma io ho pensato che fosse una sorta di ballon d'essai, cioè un tentativo di capire se di smuovere le acque e vedere quali erano le reazioni degli attori in campo. Poi si è capito anche che questa notizia è stata rinviata da un blog di uno scrittore che probabilmente voleva fare anche un po' di pubblicità ai suoi libri. Certo è che non è venuta mai dagli Stati Uniti o da portavoce americani alcuna smentita di questo per tutta la giornata, forse proprio per non dare importanza a una cosa di questo genere, anche se poi la notizia è stata smentita sia dal governo afghano sia da un portavoce del governo pakistano. Però che cosa ci dice? Ci dice un'altra cosa, che questa notizia in qualche modo ha occupato per alcune ore la giornata di tutti in giro per il mondo, perché c'è un forte desiderio di capire, se di sperare in una svolta del conflitto afghano, e una svolta potrebbe essere rappresentata almeno psicologicamente dalla cattura o di Omar, del Mullah Omar o di Osama Bin Laden. Siccome in realtà non c'è una via di uscita dall'Afghanistan comoda o facile o semplice, l'unico modo in fondo è sperare che qualcuno di questi due capi venga catturato. Eh beh, però mi sembra insomma che il tuo occhio disincantato ormai dopo tanti anni in Afghanistan non si è troppo eccitato alla notizia, insomma ci ha sperato forse come tutti, ma non si è convinto. Grazie ad Alberto Negri, ci sentiremo ancora in altre occasioni. Vorrei ancora restare ancorato alla pagina di Esteri, che peraltro abbiamo già ampiamente sfogliato con il collega del Sole 24 Ore Alberto Negri. Intanto voglio ricordare che nello scorso weekend, nello scorso fine settimana, ci sono state le elezioni presidenziali In Polonia ha vinto il candidato Komorowski contro il conservatore Jarosław Kaczynski, che poi è il fratello del presidente Lech, morto, ricorderete, in un incidente aereo qualche mese fa. Si tratta di una vittoria del candidato europeista e, comunque la si voglia vedere, questa è anche una sconfitta per la Chiesa polacca, evidentemente ancora orfana di Wojtyła, Chiesa tra l'altro e Vaticano soprattutto, che in questi giorni hanno dovuto fronteggiare nuovi colpi di scena inquietanti, poi alcuni sono ancora da dimostrare, dall'inchiesta pedofilia che arriva dal Belgio. Non abbiamo però il tempo di affrontare il file, la questione Chiesa, invece dal Belgio ci spostiamo alla vicina Francia, perché sicuramente è stata una brutta, bruttissima settimana quella che ha vissuto Sarkozy. Sentiamo perché in questo servizio da Parigi di Igor Fiatti, mercoledì mattina. Rivelazione dopo rivelazione, l'affaire Betancourt è arrivato all'Eliseo. Alle scoperte quotidiane delle ultime settimane si è aggiunta infatti un'accusa che investe direttamente Nicolas Sarkozy. Liliane Betancourt, donna più ricca di Francia in quanto figlia del fondatore del gruppo L'Oréal, avrebbe finanziato la campagna presidenziale del 2007 di Sarkozy con una bustarella da 150.000 euro. A sostenerlo è l'ex contabile della Betancourt, secondo la quale Sarkozy è un habitué della casa della prima ereditiera di Francia. Insomma, quanto basta per minare ulteriormente il governo francese, che è sempre più destabilizzato dalle scoperte dei giri di denaro e contatti ambigui tra la politica e il gruppo Betancourt. E mentre la maggioranza respinge le accuse e parla di calunnie, ormai tutti aspettano di sentire la voce di Sarkozy, un Sarkozy che nei prossimi giorni dovrebbe parlare in diretta televisiva ai francesi. Sarkozy ha invitato il governo, immagino anche se stesso, a mantenere il sangue freddo. Nel frattempo le accuse nei suoi confronti si sono anche leggermente ridimensionate, comunque la vicenda rimane torbida e naturalmente tutta da affrontare. Adesso torniamo a casa nostra, veniamo a due storie di corruzione, mi verrebbe da dire di ordinaria corruzione, che arrivano dall'Italia. Una ce l'ha raccontata Maria Luisa Pezzali nel GR delle 19 di giovedì, l'altra invece arriva da Napoli ed è affidata alla voce di Paolo Picone nel GR delle 7 di mercoledì. Un'associazione per delinquere caratterizzata dalla segretezza degli scopi e volta a condizionare il funzionamento degli organi costituzionali nonché degli apparati dello Stato. È quanto scrive il GIP del Tribunale di Roma nell'ordinanza d'arresto a carico del faccendiere Flavio Carboni, personaggio discusso e coinvolto in molti misteri della storia d'Italia, dell'ex esponente della DC Pasquale Lombardi e dell'imprenditore napoletano Arcangelo Martino. Tra settembre e ottobre 2009, si legge, i tre tentarono di avvicinare i giudici della Corte Costituzionale per condizionare il giudizio sul cosiddetto lodo Alfano. Nel provvedimento del GIP viene citata una riunione a pochi giorni dal pronunciamento della Corte a casa del coordinatore del PDL Denis Verdini, alla quale oltre agli arrestati avrebbero partecipato fra gli altri anche Marcello Dell'Utri e il sottosegretario alla giustizia Giacomo Caliendo. L'inchiesta della Procura di Roma nasce da uno stralcio del fascicolo sugli appalti per l'eolico in Sardegna, in cui sono coinvolti fra gli altri anche Verdini e il governatore dell'isola Ugo Cappellacci. Tra le operazioni contestate agli arrestati con l'accusa di associazione per delinquere e violazione della legge Anselmi sulle associazioni segrete, anche il tentativo di condizionare il voto in Campania sostenendo la candidatura dell'ex sottosegretario all'economia Nicola Cosentino e una serie di tentativi per pilotare tramite pressioni su componenti del CSM le nomine di alcuni magistrati. Sono 5 le persone arrestate, 4 le aziende sequestrate in seguito all'inchiesta sulle gare d'appalto truccate commesse relative alla manutenzione, alla rottamazione e in generale a tutti i lavori riguardanti carri e locomotive di Trenitalia, un affare da 10 milioni di euro. Al centro dei fatti criminosi vi sarebbero la società FD Costruzioni SRL di Napoli, dei fratelli Giovanni e Antonio De Luca, che operano proprio nel settore ferroviario, ed altre aziende alle quali i due dirigenti di Trenitalia, destinatari delle misure cautelari, Raffaele Arena e Fiorenzo Carassai, avrebbero indebitamente affidato gli appalti, come ci ha raccontato il maggiore Claudio Gnoni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Nei confronti di Arena abbiamo accertato addirittura l'affidamento ad imprese, in particolare la Mavis, che era amministrata dal cognato dell'Arena. In cambio altre imprese che risultavano affidatarie degli appalti hanno erogato somme di denaro accreditate su conti correnti anche della moglie dell'Arena. Trenitalia ha collaborato attraverso il proprio audit con una indagine interna alla ricostruzione degli illeciti e poi ha licenziato i due dirigenti. Trenitalia sicuramente è parte lesa, ha collaborato alle indagini e sicuramente ne è stata danneggiata dall'attività di questi soggetti. brutte storie di corruzione, di accuse, poi vedremo appunto come andranno avanti, come si evolveranno. Cerchiamo invece adesso di disintossicarci, e quindi mi piace chiudere la puntata di oggi ricordando Lelio Luttazzi, il grande cantante, musicista e forse ancora molto di più, scomparso nella notte tra mercoledì e giovedì all'età di 87 anni. Questo è il ritratto firmato da Marta Cagnola. Erano gli anni della televisione in bianco e nero. Studio 1 su tutte, ma anche Ieri e Oggi, Il Paroliere e poi l'apice della popolarità, Rivoluzionario, alla radio. Lelio Luttazzi presenta Il Paroliere! Luttazzi era stato uno dei primi a portare le strutture del jazz nella canzone italiana e i jazzisti in Italia. Per i non iniziati vedrete cosa fa Hampton, oltre alla pianoforte, batteria, momento, vado, permesso. La sua parabola si era interrotta bruscamente all'inizio degli anni 70 per quella vicenda di droga dai contorni mai chiariti in cui vennero coinvolti tanti personaggi dello spettacolo. Conferenza stampa di Lelio Luttazzi. Il popolare musicista ha annunciato il suo rifiuto all'invito di comparire di nuovo sul video. Non mi riuscirebbe più, ha detto Luttazzi, di sorridere come una volta. L'ingiustizia patita ha spezzato qualcosa nel suo carattere, ma è con civile fermezza che si dedicherà ora alla personale battaglia, perché anche nel nostro paese si è introdotto nei codici un rimedio agli errori giudiziari. Solo negli ultimi anni era tornato a esibirsi e qualche volta anche in televisione. Lelio Luttazzi torna al pianoforte. Chiedimi tutto! Ma la sua gioia era quella di essere tornato per gli ultimi anni a Trieste con sua moglie. Tornare nella città dove sono nato, non c'è possibilità più bella di trascorrere la mia vecchiaia. E adesso tutti ad aspettare la finale dei mondiali di calcio che si disputa domani sera, mondiali in Sudafrica, vicini all'epilogo, mondiali strani, devo dire, partiti con un bassissimo coefficiente di spettacolo e di emozioni, poi per fortuna il coefficiente si è alzato nella seconda fase, mentre sono crollate via via tutte le grandi favorite sudamericane, naturalmente Argentina e Brasile in testa. Sarà così la nostra vecchia cara Europa a contendersi il titolo mondiale, finale inedita tra Spagna e Olanda, una delle due per la prima volta vincerà il mondiale. Io personalmente tifo Olanda per un motivo molto semplice. Sono nato negli anni 70, gli stessi nei quali ha preso forma il mito dell'Olanda di Cruyff, Nesken, Kroll, eccetera, insomma la lista è lunghissima. Quella, per capirci, Olanda che fece 18 passaggi consecutivi in finale contro la Germania nel 64, finale che poi però perse dopo un mondiale memorabile. All'epoca infatti quell'Olanda non vinse nulla, però forse è arrivato il momento che la storia restituisca qualcosa agli olandesi. Attenzione, vedrete che dopo questo mio appello sicuramente la Spagna vincerà mani basse il mondiale. Spagna che tra l'altro nello sport sta dilagando, dal basket al tennis al moto mondiale. Di sicuro però se l'Olanda vincerà, Bobby Eden farà un regalo molto particolare ai suoi fan. Non posso dirvi in radio il motivo, per una questione di senso del pudore, di decoro, diciamo così. Comunque chi vuole saperne di più basta che vada su internet e clicchi Bobby con la I, attenzione non con la Y, Eden, e scoprirà l'arcano. Abbiamo finito, ottavo giorno, etradio24.it, la nostra mail. Ringrazio in regia Valerio Rocchetti. Noi ci ritroviamo sabato prossimo, poco dopo le 9. Tutta la settimana siamo su podcast sul nostro sito www.radio24.it.